e l'anima sconosciuta dell'11 settembre, le decine di registrazioni telefoniche, trasmissione radio dei pompieri, comunicazioni di bordo degli aerei dirottati, queste sono le voci dell'11 settembre. Volevo dirvi che vi voglio bene, che sono intrappolata in questo grattacielo di New York. Qui è pieno di fumo e poi vi amo sempre. Sono stato l'ultima persona del mondo esterno con la quale abbia parlato. Lo ricorderò sempre. A volte la sera, quando sto per addormentarmi, vedo il suo volto e sento che mi dice: ti voglio bene. L'11 settembre, la figlia di Bob Harrington, Melissa, è a New York. Deve rimanervi un giorno soltanto. 31 anni, manager di successo, deve seguire la fusione delle società per cui lavora con un'altra compagnia. La riunione si tiene al 101° piano della Torre Nord del World Trade Center. Jill, c'è un incendio nel mio piano. Ti amo. Di a Nicole che amo tanto anche lei. Non so come andrà a finire qui. Vi amo da impazzire. Non è stato trovato niente di Jim. Il suo corpo si è disintegrato. Il fatto di aver parlato con lui significa moltissimo per me. Jill Gartenberg si è sposata da poco con Jim, brillante agente immobiliare di 35 anni. Jim ha accettato un incarico più prestigioso per una nuova società. L'11 settembre è tornato a sgomberare la scrivania del suo vecchio ufficio all'86° piano della Torre Nord. Un aereo si è appena schiantato sui piani alti del World Trade Center. La torre numero 1 del Trade Center ora è in fiamme. Tutta la parte esterna dell'edificio. Mandate immediatamente più uomini e mezzi che potete verso il Trade Center. Sì, abbiamo ricevuto una chiamata dal 106° piano. Vi confermiamo che si è appena schiantato un aereo sulla torre 1. In cima alla Torre Nord, un centinaio di persone stanno partecipando ad una conferenza nel ristorante Windows on the World. Tra loro c'è Christopher Hanley. È una delle prime chiamate ricevute quel giorno dal centralino del 911, numero del pronto intervento. Siamo al 106° piano del World Trade Center, abbiamo appena sentito un'esplosione. Ha detto al piano 106? Sì, c'è del fumo e la situazione è davvero grave. Non possiamo scendere per le scale, saremo un centinaio di persone. Non se ne vada, ok? Sappiamo che c'è stato un incendio, un'esplosione o qualcosa del genere nell'edificio. Le chiedo solo di restare dov'è. La veniamo a prendere. Dalla finestra vedo salire del fumo. Stiamo venendo a prendervi. Va bene, d'accordo, ma fate in fretta. Christopher era il nostro unico figlio. Era un ragazzo speciale. Aver avuto quella registrazione della chiamata al 911 è stato molto importante per noi. Il momento più intenso, più straziante, è quando chiede per favore di fare in fretta e poi dice grazie. Al centralino delle emergenze, lo avete sentito, arrivano le prime drammatiche richieste di aiuto. Per le migliaia di persone intrappolate nel grattacielo, quell'esplosione rimane ancora un mistero. Nessuno immagina come di lì a poco si stia per scatenare l'apocalisse a New York e nel resto degli Stati Uniti. Eppure, quell'11 settembre è iniziato come un giorno qualunque. Anche all'aeroporto di Boston è un bellissimo martedì mattina. I passeggeri si stanno imbarcando sul volo 11 dell'American Airlines, direzione Los Angeles. Tra loro però ci sono anche 5 terroristi. 11 settembre, aeroporto Logan di Boston. Gli ultimi passeggeri si affrettano a salire sull'aereo. Uno degli ultimi ad imbarcarsi è Mohamed Atta. E questi i suoi appunti personali. Quando stai per salire su un aereo, rivolgi a Dio le tue preghiere e suppliche. Come ha detto il profeta, la pace sia su di lui. Un'azione dedicata all'Altissimo è meglio di qualsiasi altra al mondo. Una volta seduto al tuo posto sull'aereo, occupa la tua mente con pensieri rivolti all'Altissimo. Dio ha detto: o tu credente, quando ti imbatterai nel nemico, ricordati sempre di Dio. In questo modo avrai successo. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 con Marina Milone. Quello che stiamo raccontando oggi è la storia dell'attacco al cuore degli Stati Uniti l'11 settembre del 2001. Due aerei vengono dirottati, il primo è il volo 11 dell'American Airlines che imbarca 5 terroristi guidati da Mohammed Atta. Mentre il volo 11 attende di decollare, Mohammed Atta fa l'ultima telefonata. A rispondergli è Maru Al-Shai, il capo dei dirottatori del secondo volo, il 175 della United Airlines, che staziona in attesa di decollare ad appena un centinaio di metri di distanza. Anche lo United 175 è diretto a Los Angeles, ma il suo viaggio terminerà contro la torre sud del World Trade Center. American 11, 20-10, 0 a 10 nodi, autorizzato al decollo sulla pista 09. Roger, torre. American 11 pronto al decollo, pista 09. Ok. I terroristi cominciano a prepararsi. Sono le 8:13. I piloti non sono più ai comandi dell'aereo. Nella zona centrale dell'aereo viene spruzzato del gas lacrimogeno. Pochi istanti dopo, tutti e 5 i dirottatori sono chiusi nella cabina di pilotaggio. Nessuno li vedrà né li sentirà più. Ai comandi del volo 11 dell'American Airlines ci sono adesso 5 terroristi, ma il mondo, almeno fino a questo momento, è ancora all'oscuro di tutto. E anche per il presidente George W. Bush è un giorno come tutti gli altri. E a centinaia di chilometri di distanza da New York, in Florida, sta facendo footing, come tutte le mattine, insieme ai suoi agenti della sicurezza. Ce ne parla il fotografo dell'Associated Press, Doug Mills. Il presidente correva con gli uomini della sicurezza. Su, forza, andiamo! Tutto sembrava normale, assolutamente normale. Il presidente era in forma. Il programma della giornata prevedeva la visita ad una scuola elementare. Poi saremmo tornati a Washington. E invece nulla andò come previsto. American 11, salire mantenendo livello di volo 350. American 11, salire mantenendo il livello di volo 350. American 11, Boston. La torre di controllo perde i contatti con l'aereo. Evento molto raro. E poco dopo, a bordo del volo 11, viene disattivato anche il trasponder. Il velivolo adesso può essere localizzato solo con il radar. Disattivato anche il pilota automatico, Atta e gli altri 4 dirottatori hanno il controllo dell'aereo. Sono le 8:19. L'hostess Betty Hong si avvicina ad uno dei telefoni e prova a chiamare a terra. Chiama freneticamente l'ufficio prenotazioni dell'American Airlines, ma il segnale è troppo debole e la conversazione si fa assurda e tragica. Sono il numero 3 nel retro. La cabina non risponde. Credo che ci siano dei gas. Mi dica il numero di sentito. Abbiamo appena lasciato Boston. In quale sedile è seduta? Che numero? Ok, ora mi metto seduta. Il numero è 3R. Ok, lei quindi è una delle hostess. Mi scusi, ha detto che è una delle hostess. Pronto? Mi chiamo Betty Ong, sono il numero 3 sul volo 11. La cabina non risponde, nella business class qualcuno è stato pugnalato. Non riusciamo a respirare, qualcuno ha spruzzato gas lacrimogeni. Questa che avete appena sentito è la prima delle tante voci dell'11 settembre. Dall'inizio del dirottamento sono passati 10 minuti e il silenzio radio dalla cabina di pilotaggio sta per essere interrotto. Il capo dei dirottatori, Mohamed Atta, ha deciso infatti di parlare ai passeggeri. Ma il terrorista non sa che questa conversazione viene intercettata anche dalla torre di controllo di Boston. Abbiamo alcuni aerei. Restate calmi e andrà tutto bene. Stiamo tornando in aeroporto. Nessuno si muova. Andrà tutto bene. Se proverete a muovervi, metterete in pericolo voi e l'aereo. State calmi. Questa la voce di Mohamed Atta, un documento unico che testimonia i primi drammatici momenti di un dirottamento che si trasformerà a breve in catastrofe. In quegli stessi minuti, mentre l'American 11 vola in silenzio radio con il trasponder spento, verso una destinazione sconosciuta in Florida, il presidente Bush si sta dirigendo verso la scuola dove è prevista la sua visita. Mentre il corteo presidenziale si dirige a Sarasota, alle 8:25 anche l'hostess Amy Sweeney del volo 11 dell'American Airlines si avvicina ad un telefono di bordo e riesce a chiamare a terra. Buongiorno, qui American Airlines, aeroporto di Logan. Sono Amy Sweeney. Ascolti e faccia molta attenzione. Sono sul volo 11. L'aereo è stato dirottato. Ho i numeri dei sedili dei dirottatori. A quel punto ho preso il telefono e ho detto: Amy, sono Michael Woodward. Che cosa sta succedendo? Michael, il nostro aereo è stato dirottato. Dopo quella frase ha cominciato a darmi alcune informazioni. Ho i numeri delle poltrone dei terroristi. Nella parte posteriore non si udivano urla né scene di panico. Ciò naturalmente non significa che Amy non fosse preoccupata. Semplicemente che la situazione sembrava sotto controllo. Almeno fino a quel momento il volo 11 fa rotta a nord-ovest. Improvvisamente però i terroristi gli imprimono una virata a sinistra di 10 gradi. Alle 8:37 i controllori di Boston contattano i militari. Ce ne parla il sergente Jeremy Powell. Era di prima mattina. Eravamo nel mezzo dell'esercitazione. Fummo contattati dal centro di Boston. C'era un possibile dirottamento di un aereo di linea. All'inizio non capivo se facesse parte dell'esercitazione. Chiesi se era reale o se era un'esercitazione. Mi dissero: no, è reale. Abbiamo un vero dirottamento. Era tutto vero. Has he seen the track? Chiamo il comando dell'aviazione. C'è una possibile emergenza. Ci informarono che avevamo un dirottamento in corso. Comunicai alla base di Otis di portarsi in stato di emergenza. Livello di allerta confermato. Era il colonnello Robert Marr. Sono le 8:37. Anche l'aviazione degli Stati Uniti entra in uno stato di massima allerta per il dirottamento del volo American Airlines numero 11. Passano pochi minuti, i caccia si alzano in volo, quell'aereo ormai è quasi arrivato a destinazione finale. Betty Ong ed Amy Sweeney, le hostess del volo 11, riferiscono al contatto di terra che l'aereo sta effettuando manovre molto pericolose. I dirottatori eseguono virate improvvise, l'aereo scende in picchiata. Il volo 11 si sta dirigendo a sud sopra Manhattan. L'aereo sta scendendo in picchiata. Le chiesi di guardare fuori dal finestrino. Di lì a poco la nostra conversazione sarebbe stata interrotta. Amy mi disse: vedo l'acqua, vedo i palazzi, siamo bassi, troppo bassi. Vedo molti palazzi intorno a noi. Vedo l'acqua. Vedo i palazzi. Molti palazzi. Siamo bassi. Troppo bassi. Intanto sono le 9 del mattino e George Bush è arrivato alla scuola quando il suo staff lo avvisa che a New York un aereo si è appena schiantato contro le Torri Gemelle. D'improvviso Manhattan piomba nell'incubo. Ready? Can. Yes, can. Get ready. May. Yes, may. Give yourselves a pat on the back. Yeah. Eravamo almeno 5 giornalisti nella classe di quella scuola. I bambini ripetevano i loro esercizi alla maestra. Era la scena più innocente e nel posto più tranquillo e normale del mondo. Capì che qualcosa non andava appena il capo dello staff entrò e bisbigliò qualcosa all'orecchio del presidente. La sua espressione era attonita, come se pensasse: mio Dio. Il capo dello staff deve avergli sussurrato: signor Presidente, un secondo aereo ha colpito il World Trade Center. L'America è sotto attacco. Non so cosa possa essergli passato per la mente. Erano Compton e Doug Mills, giornalisti al seguito della delegazione presidenziale nella scuola della Florida l'11 settembre, mentre all'interno del grattacielo nord di Manhattan i morti si contano a decine. Mix 24. La storia. Quella dell'11 settembre era cominciata come una mattina qualsiasi. Mi ero alzato, avevo messo a fare il caffè e stavo rifacendo il letto quando il telefono ha squillato. Era mia figlia Melissa. Sapevo che era a New York ed ero completamente all'oscuro di quello che era successo. Melissa era molto agitata, quasi isterica. Le dissi: prova a calmarti, piccola, così anche papà capisce qual è il problema. Lei si calmò e mi disse: papà, sono al 101° piano del World Trade Center ed è appena scoppiata una bomba. In camera da letto c'era un televisore, lo accesi, era sintonizzato sulla CNN. Vidi il fuoco, vidi il fumo, sentii un tonfo al cuore. Melissa mi diceva che a preoccuparla di più non era tanto il fuoco quanto il fumo. Tesoro, le dissi, riesci a vedere un cartello che indica l'uscita? E lei: sì, papà. Bene, senti, in corrispondenza dei cartelli d'uscita c'è sempre la tromba delle scale. Corri più in fretta che puoi verso le scale ed esci prima che puoi da quel grattacielo. Era Bob Harrington, padre di Melissa. Né lui né la figlia sanno che tutte e tre le scale di emergenza sono andate distrutte. Intrappolata a solo 3 piani da dove è avvenuto l'impatto, Melissa non ha vie di uscita. È al piano 106, nessun ferito, ma c'è gente intrappolata, manca l'aria. Dove si trova? Al 106° piano del World Trade Center. Subito dopo l'attacco, le linee del pronto intervento vengono subissate da migliaia di telefonate provenienti dalla Torre Nord. Il 7 settembre 2001, Jim Gartenberg accetta un nuovo lavoro, una bella notizia, insieme all'attesa del secondo figlio. Quell'11 settembre, per Jim, è l'ultimo giorno di lavoro nel vecchio ufficio, nella Torre Nord. Jim, c'è un incendio nel piano. Dì a Nicole che amo tanto anche lei. Non so come andrà a finire. Viviamo da impazzire. Non avevo idea di cosa stesse accadendo. Ascoltai quel messaggio, lo ascoltai diverse volte, perché non riuscivo a credere a quelle parole. Poi, un paio di minuti dopo, riuscii a parlare con lui. Lui mi disse che si era riparato dietro una scrivania e che stava cercando di chiamare i soccorsi. Non sapeva niente di quello che era successo. Jim Gartenberg è all'86esimo piano della Torre Nord. Anche se si trova a 6 piani sotto la zona dell'impatto, è rimasto intrappolato, insieme ad un collega, per il crollo delle macerie dai piani sovrastanti. 15 minuti dopo che la Torre Nord è stata colpita, le persone che si trovano nella Torre 2 e la Torre Sud sono quasi tutte ancora alla loro scrivania e osservano la tragedia che si svolge davanti ai loro occhi. Fra di loro c'è Brad Fetchett, un agente di borsa di 24 anni che chiama sua madre. Hey mom, it's Brad. Ciao mamma, sono Brad. Ti chiamo solo perché avrai sicuramente sentito dell'aereo che si è schiantato contro la Torre 1 del World Trade Center 1. Noi stiamo bene, siamo nella Torre 2. Come puoi sentire, sono sano e salvo. Certo, è stata un'esperienza terribile per tutti noi. Ho visto una persona volare giù dal 91esimo piano. Mi farebbe piacere se mi facessi una telefonata. Suppongo che dovremo restare qui tutto il giorno. Ma appena puoi, fatti sentire. Ti voglio bene. Sono le 9.03, 17 minuti dopo l'attacco alla Torre Nord, il volo 175 della United Airlines si schianta contro la Torre Sud. Ora è 9.07, l'America è sotto attacco. A questo punto non c'è più nessun dubbio. Di lì a poco altri due aerei vengono dirottati. Uno si schianta sul Pentagono, l'altro precipiterà in un bosco della Pennsylvania. Nel frattempo tutti i network americani e le televisioni del mondo ritrasmettono le immagini delle torri gemelle in fiamme. Per molte persone che hanno parenti e amici che lavorano nel World Trade Center inizia una diretta angosciante. Nel tentativo di mettersi in contatto con chi è rimasto intrappolato tra le macerie. Un fiume di telefonate, di richieste di aiuto, di messaggi di affetto che diventa oggi la colonna sonora di una tragedia senza precedenti. Sarà a circa due terzi dell'altezza. Si vedono delle fiamme. Situazione drammatica. Stiamo facendo tutto il possibile. Quello che possiamo è mantenere la calma. Torre 2, piano 105. Al Trade Center c'è gente rimasta intrappolata. Una chiamata di linea. La linea è aperta. Stiamo cercando di metterci in contatto. Non rispondono. Qui siamo in attesa di avere informazioni più precise a riguardo. Mamma, sono Steven. Il mio grattacielo è stato colpito da un aereo. Proprio adesso. Comunque, credo di stare bene. Non mi sono fatto niente, ma c'è molto fumo. Volevo solo dirti che ti voglio bene da morire e che ti chiamo appena mi sono messo in salvo. Ciao, mamma. Steven lavorava nella Torre Sud, all'89esimo piano. Diceva che mi avrebbe richiamato e che sarebbe andato tutto bene. Poi c'erano messaggi di persone che chiamavano per chiedere come stessero i figli. Infine il messaggio di mio marito, che diceva: promettimi di non accendere la televisione. Non mi fu difficile seguire il suo consiglio. Uscii in cortile e mi misi a sedere sotto un albero, su una di quelle sedie di plastica da $5. Con il telefono appoggiato in grembo, mi preparavo a quello che mi attendeva. Quindi è alla Torre 2? Sì. Alla Torre 2 del Trade Center, 88esimo piano, angolo nord-ovest. Metta degli asciugamani bagnati. Si trova all'88esimo? Sì. Non è troppo tardi. Abbiamo mandato qualcuno lassù a prendervi, non preoccupatevi. Mi fa star male non poter fare di più. Male da morire. Mamma mia. È terribile, davvero terribile dover dire a qualcuno: stai per morire. È proprio una cosa terribile. L'ordine era pattugliare lo spazio aereo sopra Manhattan. Sembrava di essere nel pieno di un brutto film d'azione. Sorvolavamo Central Park e la Statua della Libertà a caccia di aerei nemici, e sotto di noi le torri bruciavano. Era una sensazione surreale, non poteva essere vero. Ti rendevi conto che stava succedendo, ma non potevi crederci. Avete sentito Duff, pilota coinvolto nello stato d'allerta a Manhattan. Nella Torre Nord, la prima ad essere colpita, da più di mezz'ora all'86esimo piano, Jim Gartenberg è intrappolato. Dopo aver parlato con sua moglie e il suo migliore amico, Jim vuole far conoscere la drammatica situazione al mondo intero. Telefona alla redazione di una TV locale alle 9.32, 45 minuti dopo che la Torre Nord è stata colpita. Così Jim interviene in diretta. È con noi Jim Gartenberg. Jim si trovava all'86esimo piano, non so di quale delle due torri. Jim, dov'eri? Sono al World Trade Center 1 e vorrei precisare che in questo momento sono ancora dentro. Sei sopra o sotto il punto in cui è avvenuto il... Non ne ho idea, non so dove si sia schiantato l'aereo, ma quanto mi risulta si è trattato di un aereo. Jim, si è trattato di due aerei, uno contro una torre, l'altro contro l'altra. Cosa vedi intorno a te adesso? C'è del fumo? Ci sono delle fiamme? Vorrei dire che sono bloccato all'86esimo piano. La porta antincendio ci ha chiusi dentro. Intorno a noi sono caduti detriti e macerie e una parte della zona centrale dell'edificio è andata distrutta. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Quello che stiamo raccontando oggi è il giorno che ha cambiato la nostra storia. Il primo attacco nel territorio degli Stati Uniti è l'attacco alle Torri Gemelle, l'11 settembre del 2001. Lo facciamo attraverso il sonoro originale degli ultimi momenti delle oltre 3.000 vittime delle torri. Melissa Harrington è rimasta intrappolata al 101esimo piano. Dopo aver parlato con suo padre, Melissa chiama suo marito, Sean, a San Francisco. Sono sposati appena da un anno. Quando il telefono squilla, Sean dorme. Sean, sono io. Volevo dirti che ti amo e che sono intrappolata in questo grattacielo di New York. È pieno di fumo. E volevo dirti che ti amerò per sempre. Quando ho sentito il messaggio che ha lasciato a Sean, nella sua voce c'era la disperazione. In pratica Melissa diceva a Sean che era arrivata la sua ora, ma che lo avrebbe amato per sempre. Il presidente Bush rilascia le sue prime dichiarazioni. Oggi abbiamo assistito ad una tragedia nazionale. Due aerei si sono schiantati contro il World Trade Center. Tutto questo fa pensare ad un attacco terroristico contro il nostro paese. Ho ordinato che tutte le forze del governo federale si attivino per un'indagine che porti a identificare e scovare chi c'è dietro questo atto. Non cederemo mai al terrorismo. Mentre il corteo riparte a velocità folle verso l'aeroporto, un'ora dopo che il primo aereo si è abbattuto contro la Torre Nord, qualcuno sta ancora cercando disperatamente di mettersi in contatto con i propri cari. Le centraline telefoniche sono sovraccariche. Quando Tom McGinnis, 41 anni, riesce finalmente a parlare con sua moglie, sa già di non avere nessuna possibilità di mettersi in salvo. Ce ne parla sua moglie, Iliana. Lì per lì tra me mi dissi: ma dove sei? Ero seccata perché non mi rispondeva. Poi rispose: siamo in una sala riunioni e non possiamo uscire. Siamo intrappolati in una sala riunioni. Allora gli chiesi: ma chi c'è lì con te? Lui mi fece il nome di qualche persona che conoscevo. Tre persone che erano con lui più qualcun altro. In sottofondo sentivo della gente parlare, non c'era un clima di panico. Ricordo che uno urlava: buttiamo giù questa dannata parete. Buttiamola giù. Io gli ripetevo: vedrai che ce la farete a uscire. A un certo punto però mi disse: Iliana, non puoi capire. Dai piani di sopra c'è gente che si butta di sotto. Fu allora che mi spaventai sul serio. Pensavo a cosa provassero nel vedere che da sopra si lanciavano nel vuoto. Era una cosa inimmaginabile. Io gli dicevo: vedrai che stasera sarai a casa. Stasera sarai a casa. Mi disse, ti amo e abbi cura di Caitlin. Devo abbassarmi a terra, ti amo, e cadde la linea. Come in un film dell'orrore, la gente si lancia dalle finestre, interi piani si riempono di un fumo nero e intorno una città che guarda impaurita, il simbolo del suo potere economico ferito a morte. Ma nonostante tutto, per pompieri e forze di polizia c'è ancora una speranza: riuscire a portare in salvo le migliaia di persone rimaste intrappolate sopra e sotto il punto d'impatto dell'aereo. Per loro e per chi è rimasto nelle torri sta per iniziare un'inconsapevole corsa contro il tempo. Alle 10 le operazioni di soccorso procedono ancora a rilento. Le radiotrasmittenti dei vigili del fuoco hanno problemi di ricevimento all'interno delle torri. Una volta nella tromba delle scale, i pompieri non riescono più a comunicare tra di loro. Qui battaglione 7, al piano 40 della torre 2, c'è un ascensore che funziona fino al piano 40 e presidiato da un uomo della squadra 15. L'uomo che fa funzionare la radio è Orio Palmer, 45 anni, comandante del battaglione 7. Palmer è stato tra i primi ad arrivare sul posto. Appena entrato nella torre sud, è riuscito da solo a riparare un ascensore e portarlo fino al 40° piano, a metà strada dal punto dove 700 persone stanno lottando per sopravvivere. Dobbiamo farcela a piedi. Ora sono al 69, ma ci serve un'impalcatura più alta. Le pareti della scala B sono state danneggiate al 73 e al 74. Le pareti presentano delle crepe. Sono state danneggiate, bisogna fare attenzione. Durante la salita, Palmer scopre che una delle scale, quella sud, è ancora intatta. Arriva fino alla zona dell'impatto, poi va oltre. Per le centinaia di persone rimaste intrappolate, potrebbe essere una via di fuga. Scala sud, torre sud. Abbiamo due sacche di fuoco isolate. Dovremmo essere in grado di domarle con due manichette. Confermo, piano 78. Numerosi 1045, codice 1S. Piano 78. 104, numerosi civili. Ci servono due pompe quassù. D'accordo, stiamo arrivando. Non mi ha sorpreso sentire che Orio fosse riuscito ad arrivare al 78° piano. Aveva raggiunto il punto dell'impatto. Un'impresa straordinaria. Ha fatto qualcosa di memorabile. E l'ha lasciato ai miei figli e ai loro figli. È per questo che si deve onorare la sua memoria e la persona che è stata. Ci portarono direttamente sulla pista. L'Air Force One era pronto al decollo. Il presidente fu fatto salire subito a bordo. Niente saluti o strette di mano. Il portellone principale venne chiuso. Noi della stampa, 13 in tutto, fummo spinti dagli agenti della sicurezza sulla scaletta posteriore. Continuavano a gridarci, muovetevi! Tra le urla e le spinte, riuscimmo finalmente a salire a bordo. Il decollo fu quasi immediato. Era la giornalista americana Ann Compton. Sono le 9:54, negli stessi minuti in cui l'aereo presidenziale sta decollando, la torre sud del World Trade Center crolla. Una telefonata al numero d'emergenza fatta dall'interno dell'edificio fissa quel momento. Siamo al 105° piano della torre sud. A telefonare è Kevin, padre di tre figli. Dalla sua viva voce gli ultimi terribili istanti prima della tragedia finale. Qui è pieno di fumo. Piano 105, torre 2. D'accordo, non si muova, non faccia nulla. Appena possibile veniamo a prenderla. Mi ripete sempre la stessa cosa, ma qui è pieno di fumo. È davvero tanto. Qui è molto difficile respirare. Stiamo facendo il possibile. Ma dove siete? A che piano siete arrivati? Stiamo per arrivare. Non mi sembra. Vi prego, ho dei figli piccoli. La capisco, signore. Quassù c'è un mucchio di gente, lo so che ce n'è tanta anche nel resto dell'edificio, ma noi siamo in cima. Il fumo sale in alto, siamo stesi sul pavimento, vicino alla finestra. Fate in fretta, faccio fatica a respirare. Non vedo niente vicino alla finestra. Ok, cerchi solo di resistere. Per lei è facile in un ufficio con l'aria condizionata. Qui la situazione è critica, è tutto nero, non si respira. Pronto? Pronto? Siamo di fronte al centro finanziario. Siamo in tre. Due finestre rotte. La torre cominciò a venire giù. Fu la prima a cadere. Qualcuno ha detto che le parole di Kevin gli hanno fatto sembrare più umani gli eventi dell'11 settembre. Si trattava di persone in carne ed ossa, non solo di due grattacieli. Vorrei che l'ascolto di queste registrazioni insegnasse alla gente che la vita è breve, che puoi perdere una persona cara da un momento all'altro e che quindi dobbiamo sfruttare ogni momento della vita per dimostrare loro il nostro amore. È questo che conta nella vita. Era Wendy Cosgrove, moglie di Kevin. Dopo 62 minuti, nonostante sia stata la seconda ad essere colpita, la Torre Sud è la prima a crollare. Vi perdono la vita circa un migliaio di persone tra civili e vigili del fuoco. Oltre a Kevin Cosgrove ci sono Brad Fetchett e il capo battaglione Orio Palmer e Stephen Mulderry. Squadra 3 a Manhattan, urgente! La Torre Sud è crollata adesso! Sì, è crollata adesso! George, digli di mobilitare l'esercito! Ci vuole l'esercito qui a Manhattan! Conoscevo il cosiddetto scenario del giorno del giudizio. Il presidente deve essere portato al sicuro per mantenere il governo in caso di attacco nucleare. Ma io non avevo mai pensato che mi sarei ritrovata in una simile situazione sull'aereo presidenziale. Era spaventoso. Era la giornalista Ann Compton. I giornalisti, i membri dello staff presidenziale insieme a George Bush sono tutti sintonizzati sul monitor di bordo dell'Air Force One che trasmette le immagini della devastazione di Manhattan. Ma nonostante sia stata la prima ad essere colpita, la Torre Nord è ancora in piedi. Per chi ha dei cari intrappolati al suo interno, il crollo della Torre Sud però è come una terribile premonizione. Quando venne giù la prima torre, speravo che Melissa fosse uscita dall'edificio. La zona sud del ponte di Brooklyn è avvolta da una nube di polvere. Sapevo che Melissa non era in quella torre. Quasi impossibile muoversi! È urgente! Un genitore vuole sempre avere una speranza. Alle 10:28, 102 minuti dopo essere stata colpita, cade anche la Torre Nord. Vidi la torre cadere e allora capii che non l'avrei sentito mai più. In quel momento vidi la sua vita finire. Nel crollo della Torre Nord perdono la vita 1.400 civili. Oltre a Melissa Harrington e Jim Gartenberg, muoiono tra gli altri Christopher Halley e Tom McGuinness. Il presidente degli Stati Uniti intanto viene condotto in un luogo segreto e farà ritorno a Washington solo nella tarda serata di quell'11 settembre. L'America dovrà aspettare ben 9 ore prima di ascoltare le dichiarazioni di Bush. Ai momenti drammatici e di tensione della giornata del presidente George Bush sarà dedicato il racconto di domani di Mix 24. Intanto, per le famiglie dell'11 settembre, nei mesi e anni successivi, inizia l'impresa più difficile, riuscire a dare un senso a questa immane tragedia collettiva. Il mondo non si ferma ad ogni tragica perdita di una vita, anche se vorrei tanto che lo facesse. Il mondo ha sempre molto da fare e capisco benissimo che uno non può restare in lutto permanente. È facile cadere nella tentazione di ritirarsi in un angolo e lasciarsi scorrere la vita addosso, ma per me sarebbe un modo meschino di vivere, perché vorrebbe dire ignorare tutti i doni che abbiamo ricevuto. Io non ho voluto diventare così, non l'ho voluto. E posso dire di non averlo fatto.